Qui al secondo capitolo del Trattato di Megillah, la quarta Mishnah, vediamo chi può leggere la Megillah e far uscire l'obbligo ad altre persone e chi invece non può. La Mishnah dice così: Hakol, tutti quanti, Kesherin, sono adatti, dalla parola Kasher, Likrot et Megillah. Tutti sarebbero adatti a leggere la Megillah e far uscire l'obbligo agli altri. Chutz, eccezione. Mecheresh, Shote, Vekatan. Ora, anticipo che esiste, diciamo, spesso queste tre categorie di persone vengono messe insieme. Iniziamo dall'ultimo. Katan, minorenne. Minorenne, sì, può fare una mitzvah, ma non può far uscire l'obbligo a qualcun altro, perché non essendo lui obbligato, non ha la capacità di far uscire l'obbligo a un altro. Sì. Per esempio, se venerdì sera si fa il kiddush, qualche volta qualcuno mi racconta: ah, a mio figlio piace fare lui il kiddush, non me lo fa fare a me. Oppure, a mio figlio piace far lui il mozzi e non me lo fa fare a me. È molto bello che lo fa tuo figlio, però per far uscire l'obbligo a tutti quanti che sono a tavola lo deve fare qualcuno che ha già fatto bar mitzvah. Perché bar mitzvah significa tu sei obbligato, se tu hai l'obbligo puoi far l'obbligo agli altri. Se tu non ce l'hai, è bene che lo fai, ma non puoi farlo per gli altri. Allora, Katan è il minorenne. Esempio, Cheschi. Il minorenne legge la Megillah volendo, ma non fa uscire l'obbligo a qualcun altro. Shote, tutti sanno cosa significa Shote. Un matto. Un matto non essendo obbligato a fare le mitzvot, un vero matto, non essendo obbligato a fare le mitzvot, non può anche far uscire l'obbligo all'altro. E il Cheresh. Cos'è il Cheresh? Il Cheresh è teoricamente un sordo muto. Ora, il sordo muto una volta è quasi come non facesse parte della società, perché non avevano il modo di comunicare, non avevano il modo di far inserire il sordo muto in società. Oggi è diverso perché abbiamo diversi strumenti che ci permettono, e quindi anche per alcune cose i poskim odierni parlano di potenzialmente una diversa regola per un sordo muto, ma qui in questo contesto qui non stiamo parlando di un sordo muto, stiamo parlando di un semplice sordo. Un semplice sordo che in questo caso non potrebbe far uscire l'obbligo della Megillah ad un altro, perché teoricamente un sordo semplice è sì obbligato a fare le mitzvot come tutti gli altri, ma in questo caso tu per far uscire l'obbligo di una cosa letta deve essere anche sentita, ascoltata. Simile a quello che abbiamo studiato nel trattato di Berachot, che se tu leggi lo Shema e non lo fai sentire al tuo stesso orecchio, quello che esce dalle tue labbra, non esci l'obbligo. Cioè tu devi leggere, leggere significa che poi devi anche ascoltare. Mm-hmm. Visto che il sordo non può ascoltare, allora non può far uscire l'obbligo della lettura della Megillah ad altre persone. Quindi abbiamo detto, tutti possono fare uscire l'obbligo della Megillah, a parte il sordo, il shoté e il minorenne. Però Rabbi Yehuda, l'amico di William, dice, Rabbi Yehuda Omer, Machshir Bekatan. Rabbi Yehuda dice, se si tratta di un minorenne che è già arrivato all'età, non di bar mitzvah, perché se fosse così non sarebbe chiamato Katan, ma di Chinuch, Chinuch significa educazione alle mitzvot, e cioè un genitore ha un obbligo che da una certa età, non è un'età definita in maniera chiara perché dipende dal bambino, ok? Per uno potrebbe essere 5 anni, per uno potrebbe essere 7, però un genitore ha l'obbligo di instradare i figli nelle mitzvot, significa instradare, iniziare a farglieli fare, come chinuch, come preparazione e insegnamento di come le farà quando sarà invece maggiorenne. Allora, un katan, secondo Rabbi Yehuda, che già è arrivato a questa età qui, quindi per esempio diciamo che ha 10 anni e sa leggere la Megillah, Rabbi Yehuda sostiene che lui può far leggere la Megillah anche ad altri. Ok? E su questo si discute nei poskim. In pratica non si usa fare così. Ora, seconda regola della Mishnah, di questa Mishnah. La Mishnah adesso farà un elenco di alcune mitzvot, partendo chiaramente dalla Megillah, ma poi, come sempre, ci porterà ad altri temi. Un elenco di alcune mitzvot che l'indicazione nella Torah riguardo a queste mitzvot o esplicita o non esplicita, ma si arriva alla conclusione che è così, è che questa mitzvah va fatta di giorno in senso negli orari diurni. Tutte le mitzvot che vanno fatti negli orari diurni, da che ora a che ora significa l'orario diurno per la halakha, e partiamo dalla Megillah, perché è quella di cui stiamo parlando qui in questo trattato, perché la Megillah va letta la sera di Purim, alla vigilia, all'entrata di Purim, e anche il giorno di Purim. Ma quando si dice il giorno di Purim, cosa si intende? Dall'alba fino alle 10, come lo Shema, per esempio, o fino alle 11 come la Tefilah? Cosa vuol dire? Come si definisce? Allora la Mishnah dice così. En korinet ha-Megillah, non si può leggere la Megillah del giorno da fino a, cioè il minimo orario da cui si può iniziare a leggere Megillah, vedremo, è quando spunta, quando sorge il sole, che si chiama Hanetz HaChama, il sorgere del sole, che è dopo l'alba. L'alba si chiama Alot HaShachar o Amud HaShachar e l'orario dell'alba ancora è buio. È difficile capire se è già l'alba o non è, perché è molto buio ancora. Invece al sorgere del sole siamo già sicuri che è iniziato l'orario diurno e quindi l'orario della Megillah del giorno non può partire prima del sorgere del sole. Visto che abbiamo menzionato la Megillah, menzioniamo altre mitzvot, come dicevo, che vanno fatte di giorno e anche lì iniziano, bisogna iniziarli non prima del sorgere del sole. Quali sono queste mitzvot? Vediamo. Allora, en korinet ha-Megillah velo malin. Malin, cosa vuol dire malin? Milà, il verbo di fare milà, malin, la mul. E non si fa la milà l'ottavo giorno se non è ancora sorto il sole. È perché va fatto di giorno la milà, non di notte. E altre cose che adesso abbiamo nell'elenco, per esempio velo tovlin. Se una persona impura deve rendersi pura attraverso una tevilà in un certo giorno, deve aspettare che diventi giorno, quindi non prima del sorgere del sole, ok? Velo mazin, e non si spruzza. Cosa si spruzza? Stiamo facendo un riferimento, sacrificio. No? Quello diremo dopo, bravo, però qui stiamo facendo un riferimento alle ceneri e l'acqua della vacca rossa. Ah. Quando si fa la purificazione dall'impurità della morte, tumat met, c'è il processo che coinvolge le acque nelle quali sono mischiate le ceneri della vacca, del corban della vacca rossa. E questo spruzzare, si spruzza un po' di quest'acqua sulla persona, va fatto il terzo e il settimo giorno della settimana di questo processo, ok? Terzo e settimo giorno significa dal sorgere del sole in poi, non prima. Inoltre, su questo elenco abbiamo un'altra cosa. Vechen shomeret yom keneged yom. Una donna che fa, osserva un giorno per un giorno. Cosa vuol dire? Ora spiego. Sappiamo che una donna nidà, e cioè che ha il suo ciclo, rimane impura, normalmente per 7 giorni, cioè deve aspettare 7 giorni prima di poter andare al mikveh e diventare di nuovo pura. Ora, per la regola della Torah, in origine, c'è una differenza di che tipo di flusso c'è stato. Se è il suo ciclo normale, allora non necessariamente deve aspettare 7 giorni, bensì shomeret yom keneged yom. Se il flusso dura un giorno, deve aspettare un giorno, e il giorno dopo va al mikve. Se due giorni, deve aspettare 2 giorni. Se invece ha un flusso fuori dai giorni in cui sarebbe il suo flusso normale, mensile, allora lì deve aspettare 7 giorni. Ora, in pratica, per noi oggi, visto che è un conteggio e un calcolo abbastanza complicato, allora già ai tempi del Talmud è stato istituito che in ogni caso si aspettano 7 giorni. Quindi in pratica non c'è differenza per noi, però quando esisteva ancora questa differenza, shomeret yom keneged yom, che la donna per esempio doveva aspettare un giorno dopo aver visto sangue un giorno, allora il giorno dopo in cui fa la Tevilah deve essere dal sorgere del sole in poi e non prima, perché deve essere di giorno, ok? Lotit bol ad shetanetzach hamayim. In tutti questi casi bisogna farlo solo dal sorgere in sole in poi. Però cosa succede? Questo è a priori bisogna aspettare il sorgere del sole. Se a posteriori è successo che in uno di questi casi, una di queste mitzvot, la Milah o quello che era, che in tutto questo elenco che abbiamo fatto, si è fatto prima del sorgere del sole, ma dopo l'orario dell'alba, bisogna rifare, ovviamente la Milah non si può rifare, però bisogna rifare per esempio la Tevilah, oppure una volta che è stato fatto ci si può appoggiare a posteriori. Allora la Mishnah dice vechulan she asu, in ogni caso di questi elencati che si è fatta la mitzvah mishe ala muda shachar, dall'alba in poi, e però non era ancora sorto il sole, kasher. A posteriori la mitzvah è considerata kasher, è considerata fatta, perché in realtà l'orario diurno in realtà inizierebbe dall'alba. Solo per una questione di insicurezza sulla chiarezza di quando esattamente è l'alba, allora i maestri hanno detto bisogna aspettare il sorgere del sole. Ma di base già l'alba è considerato orario diurno, quindi a priori bisogna aspettare il sorgere del sole. Se per sbaglio uno non ha aspettato e l'ha fatto dall'alba in poi, allora comunque la mitzvah è considerata fatta e non deve essere rifatta. Ok? Allora, noi abbiamo parlato in questa Mishnah da che orario parte l'orario diurne. Qual è invece il limite di quando abbiamo una mitzvah di un orario diurno? Fino a che ora si può fare? Allora, tu devi farla a Milà. Certo, normalmente la fai la mattina, ma se non fai in tempo, fino a che ora puoi ancora farla? O la Megillah, di cui è il nostro trattato. Fino a che ora puoi leggere la Megillah il giorno di Purim, se non l'hai ancora ascoltata la mattina? Allora la Mishnah dice, Mishnah Hei, kol hayom kasher li kriyat Megillah, tutta la giornata fino a sera, quindi sarebbe a dire fino al tramonto, la shkiyat hamayim, il tramonto, è kasher, è adatto, è valido per la lettura della Megillah. E ora un altro elenco di mitzvot che sono fattibili fino al tramonto. Ve li kriyat ha-hallel. Quando abbiamo la mitzvah di leggere Hallel, le lodi, come in un giorno di Hanukkah o un giorno festivo di Moed o Rosh Chodesh, che c'è la mitzvah di dire Hallel, se uno non l'ha detto la mattina, magari ha fatto tefilah, si è dimenticato che è Rosh Chodesh, non ha detto Hallel. Ah, come faccio? È già orario di Mincha, perso. No, Hallel non fa parte in realtà di Shacharit. Tutto il giorno è la mitzvah di Hallel, fino al tramonto può leggere Hallel. Un'altra cosa, Velit Kiat Shofar. Se Rosh Hashanah non hai potuto sentire lo shofar la mattina, hai l'obbligo di fare la mitzvah fino al tramonto. Un'altra cosa, velin tilat lulav. La mitzvah dell'ulav e l'etrog durante Sukkot è una mitzvah dell'orario diurno e anche qui va fino al tramonto. Anche i tefilin. Non sono menzionati qui nella Mishnah, ma anche i tefilin, vero? Se uno non ha messo i tefilin la mattina, ha sempre l'obbligo di metterli fino alla sera, fino al tramonto. Velit filata musafin. Anche la tefilà di musaf, se uno non ha mancato la tefilà di musaf, in realtà si parla nella halakha di un certo limite, l'abbiamo studiato l'altro anno nel trattato di Berachot, ma se si fosse andati oltre questo limite, fino al tramonto può ancora fare musaf. Vela musafin. Prima abbiamo detto per la tefilah di Musaf, ora diciamo per il Musaf stesso, cioè il Korban Musaf, il sacrificio di Musaf, il sacrificio ulteriore che si porta a Shabbat, Rosh Chodesh. Quando noi facciamo Musaf nella tefilah è perché c'è un Korban in quel giorno nel Beit HaMikdash che si chiama Musaf. Allora anche quel Korban stesso fino al tramonto si poteva portare. Ora alcune altre cose meno comuni, che si sentono meno comunemente o che sono legate al Beit HaMikdash. Come la maggior parte di queste cose che ora vediamo in questo elenco, tutte queste seguenti cose vanno fino al tramonto. Quali sono? Allora, uno alla volta. Primo, ulevidui haparim. Vidui è il confessare, Haparim è il par e il toro. Confessare del toro. Che significa confessare del toro? Il toro deve confessare qualcosa? No. Ci sono delle situazioni quando un Kohen Gadol, quando il Sanedrin danno delle indicazioni di Halakha, ovvero dicono gli ebrei, dovete comportarvi in questa e questa e questa maniera. E poi si rendono conto che hanno fatto un errore, per esempio hanno detto, questa cosa è kasher, tutti l'hanno mangiata, invece risultava in realtà taref, ok? Allora loro devono portare un korban, devono fare teshuvah a nome di tutto il popolo, perché loro hanno dato l'istruzione, sono loro che devono espiare il loro peccato, devono portare un par, un toro come korban, e c'è un vidui da fare quando si porta questo korban, un vidui, una sorta di tachanun, confessione. E questo va fatto in orario diurno fino al tramonto. Ok? Seconda cosa, ule vidui ha-maaser. Confessione di maaser. Questo non è per un peccato, questo è un altro tipo di cosa. Ogni ciclo di 7 anni, le regole della gestione dell'agricoltura in Eretz Israel seguono un ciclo di 7 anni, per questo è il 7° anno, è l'anno sabbatico, che la terra riposa. E in ogni anno dei 6 anni, finché si arriva all'anno sabbatico, c'è una serie di doni che bisogna prelevare dal prodotto agricolo. C'è la terumah che si dà al Kohen, c'è il maaser, la decima che si dà al Levi, e ogni quarto e 7° anno bisogna fare un vidui, e cioè dire ad Akadosh Baruch Hu, io ho tolto il maaser da casa. Biarti hakodesh min habayit. È una cosa che si fa nel Bet HaMikdash, ogni quarto e 7° anno della Shemitah, di ogni ciclo di 7 anni, e lì c'è scritto nella Torah, Hayom Hazeh, in questo giorno, essendo indicato il termine Hayom, giorno, si va anche lì secondo l'orario diurno fino al tramonto. Un'altra cosa, Levidu Yom HaKippurim, quando Aharon, il Kohen Gadol, come noi descriviamo nella Tefilah di Kippur, Aharon HaKohen, doveva fare il vidui, confessare di peccati suoi di tutto il popolo di Israele sul capretto espiatorio famoso che va poi portato all'Azazel, allora questo vidui anche va fatto entro il tramonto. Poi un'altra regola che riguarda tutte le korbanot, che è la smicha. Prima di shachtare un korban, chi porta il korban fa la smicha. Smicha vuol dire appoggiarsi. Cioè deve prendere le due mani e poggiarsi con il proprio peso sulla testa dell'animale e fare il suo vidui. Ogni persona che porta un korban deve fare questo. E questa smicha va fatta entro il tramonto. L'ishchita, anche la shchita delle korbanot, va fatta entro il tramonto. L'itnufa, tnufa significa dimenamento? Esiste questa parola? Sì. Dimenare? Di spostare? Dimenare, sì. Non menare. No, dimenare. Dimenare, sì, dimenarsi. Cosa vuol dire? Vuol dire non starsi, cercare di liberarsi. In realtà no, di liberarsi, cercare di liberarsi. Agitarsi, vero? Allora, perché dimenamento vuol dire che il Kohen doveva prendere il Korban Mincha. Il Korban Mincha è il Korban vegetale, a base di farina, fior di farina, olio, eccetera, e doveva fare un dimenamento, cioè uno muoverlo in tutte le direzioni. Non girare e mischiare la cosa, no, muovere in tutte le direzioni, sì, agitare in tutte le direzioni, si chiama tnufa, e qui è riferimento non a tutte le korbanot mincha, ma al korban ha-omer. Noi facciamo la sefirata omer, che parte da un korban che si chiama korban ha-omer. Secondo giorno di Pesach si porta una misura, una quantità, che omer è un volume di quantità, si porta questa misura di orzo, come offerta al Beit HaMikdash, perché è la prima cosa che si fa con il nuovo raccolto dell'orzo, e poi a Shavuot ci sarà il nuovo raccolto del grano, e si deve fare una tenufa. Questa tenufa c'è scritto Beyom Hanifchem et Omer, il giorno fino orario tramonto. Inoltre, sempre riguardo le korban mincha, quindi il korban vegetale che dicevo prima, ci sono 3 cose che vanno fatte, anche queste 3 cose vanno fatte fino a un orario diurno, e quali sono? Hagashah. Il korban mincha va accostato al Misbeach, va portato vicino al Misbeach, si chiama Lehagish, accostare, avvicinare. Questo va fatto entro il tramonto. Kmitza significa si prende, il Kohen prende così, con tre dita, così, con, nella farina del Korban Mincha, riempie il palmo della mano con una parte. Kmitza significa togliere una parte, ok? Significa chiudere la mano così un e pugno. Prendere una parte, un pugno, diciamo, però non è proprio un pugno intero, deve togliere così e togliere così, quello che rimane in queste tre dita, e quella parte che lui prende va sul Misbeach, il resto viene mangiato dai Kohanim. Allora, questa Kmitza e la Haktara, e il portarlo sull'altare, sul Misbeach, va fatto entro l'orario che abbiamo detto, fino al tramonto. Poi l'immelika, abbiamo detto shchita è un termine che si usa per gli animali, ma per i volatili che erano portati come corbani, in alcune situazioni c'era invece di un animale un volatile, che sono volatili piccoli come colombe, sì. La shchita del volatile non avveniva con il coltello, avveniva con melika. Melika significa che il Kohen aveva l'unghia del dito, del pollice, lungo e affilato, e così faceva la shchita del volatile. Con l'unghia. Sì, questo si chiama melika, così. Ah, sapevo. Korban ofot, questo è per il korban dei volatili, anche la melika come la shchita fino al tramonto, non oltre il tramonto. Ule kabbalah. Kabbalah significa ricevere il sangue. In ogni korban bisogna, il primo sangue che esce dal taglio della shchita o della melika va preso, un altro Kohen tiene un recipiente per ricevere il sangue, e un po' di questo sangue viene di nuovo accostato, spruzzato sul Misbeach. Questa Kabbalah, ricezione, è ule hazayah. Hazayah è questo spruzzare che dicevo, va fatto entro il tramonto. Altre tre cose su questa lista: ule ashkayat sota, quando c'è la donna, una moglie che si sospetta, il marito sospetta che sia stata adultera, ma non è sicuro, allora c'è tipo un test che la Torah descrive, che si chiama ashkayat sota, che si deve scrivere su una pergamena. La parasha della sota, che è scritta sulla Torah, si scrive su un'altra pergamena. E poi si prende questa pergamena e la si cancella, la scrittura, all'interno di un'acqua. E cioè si cancella addirittura il nome di Hashem. Okay? L'unico posto in cui è permesso è mitzvah cancellare il nome di Hashem, che normalmente è un divieto assoluto. E il Kohen deve dare a bere alla donna queste acque. E se lei effettivamente ha peccato, allora le acque diventano una maledizione che alla fine portano alla sua morte. E se invece lei non ha peccato, allora le acque diventano una benedizione che la danno tantissime berachot. Questo è il dare da bere alla sotà, di nuovo va fatto entro l'orario diurno. Ma questo c'è chi lo usa ancora a fare. Come ancora a fare? Non c'è Bet HaMikdash? C'è Bet HaMikdash. No. Ve la rifat ha'egla. Arifat egla è la mitzvah che è il... sgozzare il egla, come si dice egla? Vitello. Cosa si tratta? La Torah dice, nella stessa parasha della sotà, la Torah dice: se si trova una persona uccisa in un luogo non abitato e non si sa cos'è successo, nessuno lo conosce, nessuno sa cos'è successo, in un certo senso e bisogna assumersi la responsabilità di dire com'è che è successo questa cosa e nessuno sapeva, nessuno. Allora la Torah dice bisogna misurare qual è il luogo abitato più vicino, la comunità più vicina al luogo in cui è stato trovato il cadavere, e i maestri e i Kohanim di quella città devono espiare, come espiare questo peccato, questa mancanza di responsabilità, diciamo, e devono sgozzare un vitello, una giovenca, e come espiazione, non è un korban vero e proprio, però è simile, e devono recitare tutta una kapara, lavarsi le mani, come dire, della cosa, e questo si chiama arifat egla. Anche lì si fa il paragone con il Corban e quindi deve essere fatto di giorno, quindi non oltre il tramonto. Devono provvedere pure al seppellire poi la persona. Sì, certo, certo, questo è scontato. No, fa sempre parte dell'obbligo dei Cohen, cioè dei Cohen non i Cohen, ma più, quelli della città, cioè sì. Quelli della città più vicina. Certo, certo. Ultaharat Mezzorah, l'ultima cosa dell'elenco è il processo di purificazione del Mezzorah, cioè colui che ha la Zara'at, la lebbra, quella della Torah, la Zara'at, e se è stato definito che ha la Zara'at e dopo 7 giorni che lui deve rimanere fuori dal luogo abitato, eccetera, e va via la Zara'at, lui fa un processo di purificazione all'interno del Bet HaMikdash, dove porta delle korbanot e deve fare certi rituali. Questo c'è scritto anche lì, Beyom Tahorato, il giorno in cui diventa puro, quindi il giorno significa in orari diurni e non oltre il tramonto. L'ultima Mishnah del capitolo parla invece di cose che si fanno di notte. Qui abbiamo parlato di cose che si devono fare di giorno. Allora la Mishnah dice, esattamente come le cose che si fanno di giorno bisogna farle tra il sorgere del sole e il tramonto, ciò che va fatto di notte è anche permesso farlo tutta la notte, quindi dal tramonto fino al sorgere del sole o fino all'alba. Per esempio, Kol ha-laila kasher liktzirata omer. Abbiamo detto prima che si porta il korban dell'omer il secondo giorno di Pesach. Quando si prepara? La sera prima. Durante la notte si taglia, esce Moed, il primo giorno di Moed di Pesach, e si va al campo la notte a tagliare l'omer. Allora quando è kasher? Tutta la notte. Kol ha-laila kasher liktzirata omer. Altre cose che si fanno di notte sono ulehekter halavim veivarim, l'abbiamo studiato nel trattato di Berachot, se vi ricordate, ciò che rimane da portare sul Mizbeach, che non è stato ancora possibile per mancanza di tempo portarlo sul Mizbeach durante il giorno. Per esempio, ogni korban ci sono dei grassi, halavim e eivarim, delle membra, che devono essere portate sul Mizbeach. È possibile che non ci sia il tempo di far portare tutto sul Mizbeach. Allora com'è valido il Korban se non si è fatto? Perché già portando il sangue, come abbiamo detto prima, spruzzando il sangue, il Korban è valido. E quindi possiamo aspettare a mettere queste cose quando si mettono la notte. Quando di notte? Kol ha-laila è kasher. Tutta la notte è kasher per infatti, portare queste cose sul Mizbeach. Un sacrificio che si... poi si raccoglievano le ceneri la mattina. Bravo, di tutto questo che è stato fatto la notte, sì, e la mattina si puliva, si bravo, puliva, abbiamo studiato anche questo. E la Mishnah dice, Zeh HaKlal, questa seguente è la regola generale. Davar she mitzvato bayom, una cosa che è obbligo farlo di giorno, kasher kol hayom, è permesso farlo tutto il giorno fino al tramonto. Davar she mitzvato balaila, una cosa che il suo obbligo è di essere fatto di notte, kasher kol ha-laila, è kasher di farlo tutta la notte. Però ci sono alcune cose che ci sono dei limiti. Quindi dove non c'è il limite, per lo Shema la mattina c'è un limite, allora non è tutto il giorno. Però dove non c'è il limite, la mitzvah è valida tutto il giorno. Uguale per la notte, dove non c'è il limite, la mitzvah è valida tutta la notte. Anche se i maestri hanno insegnato che le mitzvot che vanno fatte di notte bisogna farle entro mezzanotte. Non perché non sarebbero valide se si facessero dopo mezzanotte, abbiamo detto che sono valide tutta la notte, ma perché i maestri vogliono allontanare la persona dal peccato. Se tu sai che hai tutta la notte, allora posticipi, dici vabbè tanto amore, mi riposo, poi lo faccio, taratara, poi non lo fai più. Invece i maestri hanno detto entro mezzanotte, che dei leharchik et adam min avera, per allontanare l'uomo dal peccato. Anche Arvit è così, si potrebbe tutta la notte, ma bisogna anticipare fino a mezzanotte. La nostra mitzvah, Mishnah non ha parlato della Megillah di notte, solo della Megillah di giorno, anche se è obbligo leggere la Megillah la notte, e se non l'hai fatto prima lo devi fare tutta la notte, ma la Mishnah non ha parlato di questo, perché tra le due letture, quella della sera e quella del giorno è considerata più quella centrale. Non dico più o meno importante, quindi ma quella esiste a quella del giorno e posso saltare la notte. No, no, non ho detto questo. Quella di sono tutti e due obblighi. Quale dei due? Quello centrale e quello del giorno. Abbiamo concluso questo capitolo. Se Dio vuole, la prossima volta. Terzo.